as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui su Radio Città Fucico, trasmissione degli operai metalmeccanici di Bologna. Oggi puntata dedicata alla sicurezza sul lavoro. Siamo stati qualche giorno fa al presidio che si è svolto a Pontecchio Marconi davanti alla BASF, una fabbrica chimica che produce prodotti per la plastica. Purtroppo siamo dovuti andare, chiamati dalla FIOM a sostenere un presidio causato da due gravi infortuni sul lavoro. Abbiamo intervistato Stefania Pisani, la funzionaria della Filchtem. All'interno c'è la Filchtem come sindacato, ci sono anche altri sindacati confederali. Chiaramente laddove i lavoratori lottano per la sicurezza, il pane delle rose è lì. Adesso prima un pezzo musicale che purtroppo racconta un po' la situazione in Italia, e poi sentiamo Stefania Pisani che ci racconta un po' quello che è successo, e ci sentiamo per le conclusioni. Dove sono i compagni che possono fermare quelle mani assassine? Il sole rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il sole rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il sole rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il sole rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il sole rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il sole rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Il sole rosso è il sangue dei caduti, la sola rabbia è quella delle madri. Allora, siamo qui alla BASF, azienda chimica di Pontecchio Marconi. Oggi sciopero con presidio, siamo stati con i lavoratori, con i delegati della Filchtem. Abbiamo con noi la funzionaria Stefania Pisani che ci racconterà, insomma, di quello che è successo, come mai di questo sciopero, come mai di questo picchetto qui davanti ai cancelli della BASF di Pontecchio Marconi. Ma siamo in sciopero tutta la giornata perché ci sono stati due incidenti molto gravi in azienda nell'arco di 15 giorni l'uno dall'altro, uno il 9 di febbraio e l'altro il 26 di febbraio, e sono incidenti che hanno fatto emergere quanto già le rappresentanze dei lavoratori all'interno stavano dichiarando, ovvero che le misure di sicurezza all'interno dell'azienda stavano subendo un progressivo rallentamento rispetto a quelli che sono gli standard storici di questa azienda. Aspetto negato dall'azienda, fin tanto che non ci sono stati due incidenti. A quel punto, voglio dire, gli elementi oggettivi si sono emersi in una maniera eclatante. Incidenti, tra l'altro, di una gravità inaudita, perché il primo collega ha avuto un incidente che gli ha comportato 8 costole rotte, 3 vertebre lesionate, il coccige lesionato, un'operazione al coccige e, cosa assurda, riceve solo 28 giorni di prognosi. Madonna. A 15 giorni di distanza, quindi il 26 di febbraio, invece, abbiamo un ragazzino precario che lavora da solo al granulatore e ha un dito, il dito pollice della mano sinistra amputato, con il tendine che viene strappato. E sottolineo questo aspetto perché questo significa che quel ragazzo lì non potrà più usare in maniera prensile la mano sinistra a vita. E riteniamo che sia gravissimo. Cioè, un'azienda che comunque vanta investimenti importanti sulla sicurezza, che avvengano incidenti di questa gravità per noi è assolutamente inaccettabile. Abbiamo provato ad aprire un confronto con l'azienda immediatamente dopo agli incidenti, dove abbiamo posto tutta una serie di soluzioni, a nostro avviso, sia di breve che di medio che di lungo termine. Le uniche risposte positive che l'azienda ci sta dando sono quelle relative alla cosiddetta cultura aziendale della sicurezza. Adesso, è un elemento, per l'amor del cielo, fondamentale, ma non è l'unico. Cioè, perché la sicurezza sia tale, non sia forma ma diventi sostanza, bisogna alzarlo il tiro nei ragionamenti aziendali verso l'organizzazione del lavoro in sicurezza. Tutte quelle che erano le proposte che abbiamo messo sul tavolo e che andavano in questa direzione ci sono state nei fatti bypassate dall'azienda, non abbiamo avuto alcun genere di risposta. Consideriamo anche scandaloso che non venga assunto a tempo indeterminato il ragazzo che si è infortunato, considerando che avrà una difficoltà a vita a trovare lavoro, non potendo più nei fatti utilizzare la mano sinistra. A fronte di queste chiusure abbiamo deciso che l'unica soluzione possibile era protestare davanti ai cancelli per rendere pubblico il problema, perché il problema ha una duplice dimensione: quella rigidamente aziendale, ma anche quella dei servizi pubblici che ruotano attorno al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. È inconcepibile per parte nostra che l'ispettorato sia stato sollecitato ad un intervento solo dagli RLS che sono andati materialmente lì dopo il secondo incidente e l'ispettorato non sapeva nulla. Cioè, in un paese come l'Italia, dove muoiono tre lavoratori come noi al giorno, il fatto che di fronte a degli incidenti così gravi non siano stati messi e bloccati gli impianti, non siano stati controllati e non ci sia stata una verifica pubblica, a nostro avviso è scandaloso. C'è qualcosa che non va e quindi riteniamo che, oltre alla dimensione del normale confronto anche aspro che ci può essere all'interno dell'azienda, il confronto deve essere anche con le istituzioni. Siamo d'accordissimo con te, fate benissimo a fare sciopero. Quello che è successo, il pane e le rose, lo considera gravissimo, siamo qui. Ma la domanda che ti facciamo: la BASF è una multinazionale. Noi sappiamo che ha lavorato tantissimo in questo periodo. Abbiamo parlato con un po' di lavoratori qua davanti che stanno dicendo che tra le ragioni c'è anche la pressione che loro ricevono, ma anche i preposti sono sottoposti a una pressione molto forte e, secondo loro, anche a causa di queste pressioni, proprio dal fatto che stanno lavorando tantissimo, sono tantissimi precari, purtroppo accadono anche questi incidenti. Sì, il tema non è tanto un abuso dei precari in questo caso, non sarebbe corretto sottolineare questo aspetto, nel senso che il numero dei precari in azienda rispetto all'organico fisso in realtà è molto contenuto. La realtà è nel fatto che è vero, in fase Covid BASF di Pontecchio ha registrato i massimi di produzione da sempre. in un momento in cui comunque tu sei in carenza di organico, perché hai avuto tutte le malattie Covid, non avevi gli organici che erano sempre perfettamente allineati. Ecco perché noi chiediamo di discutere con le rappresentanze, ad esempio banalmente, quelli che devono essere i numeri minimi di lavoratori per far andare in sicurezza un impianto. Proprio perché i temi sono questi. Quando prima ti parlavo del dei ragionamenti che impattavano sull'organizzazione del lavoro, hai centrato il punto. Sono proprio questi i temi che ci potrebbero consentire di lavorare in sicurezza in un momento in cui hai dei picchi produttivi e dei ritmi produttivi incredibili, a fronte del fatto che però il numero delle persone che sono evidentemente negli impianti, da quello che ci dicono i lavoratori, non sono sufficienti per poter lavorare seguendo quelli che sono i normali protocolli di sicurezza che ci sono all'interno. Ecco perché noi diciamo la sicurezza non è forma ma è sostanza, perché sulla carta quei numeri minimi loro ritengono essere numeri minimi perfettamente calibrati, i fatti ci dicono che non è così. Il profitto è sempre purtroppo la causa della maggior parte degli incidenti in questo paese, alla fine la ricerca di profitto e la mancanza. Che uno può avere anche la cultura della sicurezza che vuole, nel momento in cui non consente alle persone di lavorare in sicurezza, per tanto quelle ragioni che tu hai detto adesso, la cultura di sicurezza non serve a nulla, infatti accadono gli incidenti. Ma ci sono state, anche visto quello che è successo, visto che fondamentalmente c'è questo alto carico di lavoro, sono aumentate le sicurezze, loro in questo periodo hanno modernizzato gli impianti, hanno messo sistemi, da quello che tu sai, hanno cercato di avere dei sistemi che impediscono alle persone, perché gli incidenti che ci sono stati, mi hanno raccontati entrambi, sono incidenti che si sarebbero potuti evitare con dei dispositivi che l'accesso della persona a quegli impianti avrebbe dovuto fermare. Oggi la tecnologia, siamo al 4.0, ma è stato fatto questo. E se fosse stato fatto questo non ci sarebbero stati due incidenti. Ecco, dunque alla fine siamo risposti, banalmente, ci siamo risposti da soli. E nel momento in cui le protezioni di sicurezza vengono bypassate, ovvero non ci sono, gli impianti non devono andare, si devono bloccare. Guarda, te la dico come me l'ha detta un delegato storico. Mi dice: Stefania, quando a me formavano rispetto ai temi della sicurezza, mi dicevano che un impianto è sicuro quando è a prova di scimmia. Certo, penso pure io. Ok? E se gli impianti fossero stati a prova di scimmia, i due colleghi non sarebbero invalidi oggi. Questo è grave, perché la BASF è una grossa multinazionale, queste cose non dovrebbero succedere, ha tutte le risorse per poter mettere tutti gli impianti a prova di scimmia, come brutalmente si dice, e il fatto che non è stato fatto è un indice veramente di crudeltà a questo punto, crudeltà verso chi lavora per loro e chi li sta facendo arricchire. L'ispettorato ha riscontrato queste mancanze e è stata multata? No, perché quando è intervenuto l'ispettorato, il macchinario relativo al secondo infortunio era stato rimesso a nuovo dall'azienda. Quindi quando è arrivato l'ispettorato, la griglia incriminata era come se fosse nuova. Ecco perché stiamo sottolineando anche il secondo aspetto di cui ti parlavo prima. Certo. Cioè noi dobbiamo avere contezza come lavoratori che quando usciamo di casa possiamo rientrare a casa, e lo si può fare nella contrattazione, ma serve un sistema pubblico che funzioni. È evidente che c'è qualcosa che non sta funzionando. Sicuramente il fatto che gli abbiano dato 28 giorni per il primo incidente, che è gravissimo, e questo ha fatto sì che l'intervento non è scattato, perché in Italia ci vogliono almeno 60 giorni, se non mi sbaglio. 40 giorni sì, vero. Per l'intervento, infatti, diretto da parte. Sono rimasti sotto i 40 giorni, esatto. Apposta. Vedo che c'è anche una complicità del pubblico che in Emilia-Romagna. Ho una sottovalutazione. Certo. Non abbiamo elementi al momento per ragionare in termini di complicità, ma che ci sia un'evidente sottovalutazione. Cioè, se si tiene conto banalmente delle prognosi che si hanno per gli incidenti stradali e delle prognosi che vengono date a fronte di incidenti che avvengono nei luoghi di lavoro, sembra che la misura sia diversa. Certo, è fatto. Vogliamo apposta. Delle spiegazioni. Bisognerebbe chiedere a Confindustria e chi oggi è al Ministero del Lavoro come mai succedono queste cose. Guarda, io ti ringrazio, voglio capire se andrà avanti su questa lotta, andrete avanti. Questo è solo l'inizio per quello che ci riguarda. Le risposte di natura organizzativa che gli abbiamo messo sul tavolo non erano frutto di una trattativa. Qua non stiamo parlando di soldi, non stiamo parlando di un integrativo aziendale, stiamo parlando delle condizioni minime di sicurezza. le proposte fatte a nostro avviso devono essere vagliate seriamente dall'azienda. Fin tanto che non è così, noi continueremo con la nostra azione di protesta. Ti ringrazio, noi saremo sempre con voi. Oggi sono qua anche io come dirigente FIOM, ci sono anche altri dirigenti operai, sempre FIOM. Siamo qui con voi. E questa... Hai fatto bene a sottolinearlo, perché l'altra particolarità della protesta di oggi è che non stanno protestando solo ed esclusivamente i lavoratori diretti di BASF, ma stanno protestando tutti i lavoratori del sito BASF. Certo. Quindi anche tutti i lavoratori delle ditte esterne che operano in BASF, che hanno partecipato alle nostre assemblee e che hanno ritenuto utile poter partecipare a questo genere di protesta, perché la sicurezza del sito è la sicurezza di tutti. Certamente, se vogliamo creare delle regole che la BASF rispetti e che il pubblico intervenga e non faccia sempre gli interessi purtroppo dei padroni, che lo vediamo tutti i giorni, questo che accade, dobbiamo protestare tutti insieme. Speriamo che questa protesta si allarghi e la CGIL cominci a ragionare in maniera confederale e attivi manifestazioni, perché bisogna andare anche davanti alle istituzioni. Tu l'hai fatto presente, perché la BASF qua oggi ci siamo davanti ai padroni, ma anche davanti alle istituzioni, che si muova e faccia i nostri interessi. Ti ringrazio. Grazie a te. Lavoratori, buongiorno. La direzione aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro, buon lavoro, buon lavoro, buon lavoro, buon lavoro, buon lavoro. Signor padrone, io lavoro tutti i giorni da lei, dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 6. So fare questo solo, però lo faccio da sempre, e sul mio lavoro nessuno mi può dire niente. Ehi, signor padrone, ma lei ci pensa quanto? Alle 6 sono sempre io quello più stanco. Mi fa male il braccio per gli straordinari che faccio. Oliare tutto quanto l'ingranaggio, due in alto, uno in basso. Ripetere ogni passo, ora dopo ora, più vicino a essere pazzo. Parlo con me stesso, ma come tu fai uova d'oro, io lavoro come un fesso. Cova come una gallina, riscaldando la sua autostima. Un comando, il team è già in fila, non capendo che li sta cacciando via. Poi c'è che se io parlo, c'è la gente che mi dice non farlo. Tu non dire niente, quando lo incontro dai ci penso io a farglielo presente. Signor padrone, ma lei parla poco, e quando lo fa sembra tutto un bel gioco. Lei scommette basso, sono io che rilancio, con le chiappe strette che se perdo m'ammazzo. Signor padrone, io lavoro tutti i giorni da lei, dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 6. So fare questo solo, però lo faccio da sempre, e sul mio lavoro nessuno mi può dire niente. E io sono il braccio e lei la mente, io lo faccio e lei lo vende, ma sa, io farlo saprei indipendentemente da lei. Mentre lei senza di me non è niente, se io non faccio lei non vende. Io lavoro dalle 9 alle 6, ma sono io che do il lavoro a lei. Sì, sì. Merce, denaro, merce, il suo profitto cresce. Denaro, merce, denaro, mentre io muovo il suo macchinario. Merce, denaro, merce, qualcosa dal macchinario cesce. Denaro, merce, denaro, ma io non ne sono il proprietario, no. Del budget è sicuro, ma com'è che il suo culo non cade? Lei è molto efficace, mi gira sulla brace di un contratto che scade. Posso solo una domanda, ma non voglio una risposta, non mi va ad ascoltarla. Quanto le costa fare un viaggio e invece avere il coraggio di guardarmi in faccia? E io sono il braccio e lei la mente. Io lo faccio e lei lo vende. Ma sappio farlo, saprei, indipendentemente da lei. Mentre lei senza di me non è niente. Se io non faccio, lei non vende. Io lavoro dalle 9 alle 6, ma sono io che do il lavoro a lei. Sì, sì. Merce, denaro, merce, il suo profitto cresce. Denaro, merce, denaro, mentre io muovo il suo macchinario. Merce, denaro, merce, qualcosa dal macchinario cesce. Denaro, merce, denaro, ma io non ne sono il proprietario, no. Merce, denaro, merce, il suo profitto cresce. Denaro, merce, denaro, mentre io muovo il suo macchinario. Merce, denaro, merce, qualcosa dal macchinario cesce. Denaro, merce, denaro, ma io non ne sono il proprietario, no. Merce, denaro, merce, il suo profitto cresce. Siamo di nuovo qui, abbiamo ascoltato Signor Padrone, delle Bestie Rare, un gruppo che io amo tantissimo. Sì, la situazione è veramente per certi versi assurda, ma in realtà non ci dobbiamo stupire. Dover andare a fare un picchetto davanti a una fabbrica chimica di una multinazionale così importante, la BASF è un colosso mondiale che ha sempre detto in tutte le parti del mondo che la sicurezza per lei è al primo posto e si vanta di avere un sistema di gestione della sicurezza avanzato. Il fatto che ci siano stati questi due incidenti gravi in così breve periodo e che davanti alle giuste osservazioni da parte degli RLS ci sia stata una risposta assolutamente insoddisfacente da parte della BASF, io penso che siamo arrivati a un livello tale che, oltre alla lotta che dobbiamo, che facciamo tutti i giorni, ma dovremmo veramente scatenare una guerriglia sindacale verso Confindustria, verso le multinazionali in questo caso, che pensano che in Italia fondamentalmente la vita dei lavoratori non sia importante, visto che comunque sia fanno finta di niente. Abbiamo gli incidenti che ci sono stati, potevano benissimo essere evitati, ma soprattutto la battaglia culturale che dobbiamo fare, ma anche sindacale, dobbiamo rivolgere verso le istituzioni. Ogni lavoratore paga le tasse, versa i contributi, paga un'assicurazione INAIL, paga un'assicurazione INPS, e noi vediamo che fondamentalmente un lavoratore che si spacca tutto prende solamente 28 giorni di prognosi. Cioè, di questi incidenti l'INAIL non sapeva nulla. Cioè, possiamo anche assumere tantissimi ispettori, però se poi alla fine ci sono gli strumenti sono spuntati, nel senso che davanti a un incidente grave si danno pochissimi giorni per far sì che non si attivino tutti i giusti interventi da parte dell'organo di ispezione, non serve a nulla. L'Italia deve, non a parole propagandistiche, no? Abbiamo sentito in questi ultimi mesi, sia il governo Conte e quello Draghi hanno detto che per loro la sicurezza ci mettevano dei soldi, assumevano nuovi ispettori, certo, però poi vediamo queste situazioni così assurde che davanti a due incidenti gravissimi l'ispettorato del lavoro non sapesse nulla e gli RLS sono dovuti andare loro a dire: oh, guardate che alla BASF la gente si fa male, ma male veramente. Questo è inaccettabile. Ecco perché serve una battaglia sindacale sui posti di lavoro a livello nazionale, confederale, perché è la dimostrazione che si fa male tutti, in tutti i settori. Noi siamo metalmeccanici, siamo andati davanti a una fabbrica chimica a sostenere i compagni chimici, come faremmo per la logistica, come faremmo per tutti. Dovunque accadono gli infortuni, lì dobbiamo essere solidali come classe di lavoratori. Ma io penso che si debba fare una battaglia politica verso delle istituzioni che fanno finta di intervenire, in realtà fanno di tutto. Dai tempi di Sacconi, che indebolì l'81 e la depenalizzò fondamentalmente, le istituzioni fanno di tutto perché poi alla fine i padroni possano sempre uscirne impuniti e possano sempre uscire puliti. Abbiamo visto quello che è successo con la ThyssenKrupp, abbiamo visto quello che è successo a Marghera, con l'amianto, i padroni pagano quasi mai. Ecco perché io spero che le cose cambino, e solo con la lotta potremo cambiare le cose. Ci sono un sacco di puntate che faremo sul tema della sicurezza. In questi giorni sono successe un sacco di cose importanti. C'è stata la manifestazione del 26 marzo a Firenze, parleremo sicuramente di questa, di quella manifestazione. Abbiamo intervistato i nostri amici e compagni del GKN. Ci sono stati diversi accordi che sono stati firmati, secondo noi alcuni in maniera positiva, alcuni in maniera, insomma, con delle ombre, e ne parleremo anche di questi accordi. C'è lo spazio musicale dedicato all'arte di strada, ci saranno diverse puntate. Seguiteci su Radio Città Fucico, il Panne Rose, il martedì da 1:30 alle 2, mi raccomando, sosteneteci, seguiteci e lottate insieme a noi. Prima che ce ne sarà, che fatica che ti chiedo, oggi devi scioperare. Davanti c'è, uniti a lottare, tutta la settimana, la passo lì con te. E non c'è resa, non c'è rassegnazione, ma solo tanta rabbia che cresce nel nome.